I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Renzi ha rilanciato il tema della decontribuzione per i giovani assunti nel mezzogiorno. Si tratta della possibilità per le imprese che fanno l'assunzione di avere uno sconto fiscale contributivo fino a 8.060 euro per anno per ogni assunto. E l'anno in questione sarà il 2017. Non si tratta di fondi stanziati dalla legge di bilancio, ma di fondi europei già attivabili sulla base di vecchie normative. Oggi ci sono 200 milioni a disposizione proprio in bilancio per coprire i costi della decontribuzione che vale per i giovani che usano l'alternanza scuola-lavoro nell'ambito dei contratti di apprendistato. È ancora poca cosa, ma diventerà molto di più se a questi fondi si affiancheranno appunto altri 530 milioni che varranno per il Sud e verranno prelevati dai programmi operativi per le politiche attive che vengono messi in atto dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive presieduta da Del Conte. Interessati saranno i giovani dai 15 ai 24 anni oppure anche i disoccupati che abbiano più di 24 anni ma siano senza lavoro da almeno 6 mesi. Le regioni coinvolte in queste nuove misure saranno Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Proprio ieri l'INPS ha diffuso i dati sulle assunzioni. Nei primi 9 mesi dell'anno il saldo tra assunzioni e cessazioni è positivo per 522.000 unità. Nello stesso periodo dell'anno precedente però era stato maggiore e il saldo era risultato 666.000 unità. L'analisi INPS sembra dimostrare proprio che il calo è dovuto al venir meno delle agevolazioni fiscali sui nuovi contratti. Reintrodurle quindi dovrebbe dare qualche risultato in più. Tuttavia servono anche due corollari certo non banali: creare più imprese nel mezzogiorno perché senza imprese non si assume e rendere strutturale quel taglio al cuneo fiscale sui salari che oggi penalizza il lavoro italiano. Quando entrambe queste condizioni saranno realizzate, l'Italia avrà davvero cambiato faccia. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Donald Trump non si è ancora insediato alla Casa Bianca, ma già hanno cominciato a fargli i conti in tasca. Prima gli avevano fatto i conti sul suo patrimonio, sui debiti, sulle prospettive dei suoi casinò e dei palazzi. Adesso hanno cominciato a fargli i conti in tasca su una cosa ben diversa e più nota a noi: il conflitto di interessi. Pochi sanno infatti che in America non c'è nessuna legge che obbliga il Presidente degli Stati Uniti a liberarsi dei propri beni, dei propri averi, del proprio patrimonio, o quantomeno a metterlo in un trust, nel caso in cui venga eletto. Il principio è questo: il presidente è talmente sopra le parti e al servizio dell'America che non è neppure pensabile che utilizzi il proprio potere a proprio vantaggio in termini economici. E in realtà la questione è più complessa. In America soltanto i dirigenti federali, ministri, sottosegretari e tutto il personale del ramo esecutivo del governo sono costretti a mettere in un trust o a isolare dalla propria attività tutto il patrimonio. Ma in questo caso l'aspetto più divertente è un altro: sono stati fatti i conti di quanto sta guadagnando Trump sul conflitto di interessi. Il motivo è semplice: per tutta la durata della campagna elettorale il costo del trasporto degli agenti di sicurezza del governo e anche dei giornalisti al seguito era stato a spese sia del governo che dei giornali che mandavano i propri inviati. Poiché Trump ha una flotta intera di aerei, un Boeing 757, un Cessna Citation e 3 elicotteri, ha trasportato lui l'intera carovana elettorale facendogli pagare il biglietto. Morale: soltanto dalla campagna elettorale alle spese di viaggio di agenti e giornalisti Trump ha incassato 6 milioni di dollari, di cui 3 soltanto dal governo. Fa un po' ridere, ma in realtà sono le contraddizioni americane. Si parte sempre dal presupposto che il bene sia nel presidente e che il guadagno sia al basso. In realtà, come vediamo, la situazione è più complessa e per Trump, da quello che si capisce, comincia ora il periodo più duro, quello dei nuovi conti in tasca, quelli di un conflitto che non è neppure un reato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.